Eh sì, ed ora come ogni venerdì Marco Tesei ci propone una cartolina da uno scrittore, un'immagine di un paesaggio, di un luogo, di una suggestione visiva. Oggi è la volta di Ugo Tognetti, noto per i suoi viaggi nel Nord Africa e nel Vicino Oriente alla ricerca di antiche vestigia da recuperare e restaurare. Il suo ultimo libro ha per titolo L'arte di abitare la terra, edizioni L'Asino d'Oro. Sentiamo. Mi trovo nel profondo sud del Sahara algerino, in un altopiano chiamato Tassili degli Ager, che in lingua Tuareg significa grosso modo altopiano dei fiumi, ricordando quello che era. Una lunghissima arrampicata per arrivare fino qui, poi sole, vento, silenzio totale. Eppure, in queste incredibili formazioni rocciose che mi circondano, c'è una popolazione colorata di tantissime, centinaia e centinaia di pitture rupestri, che parlano di chi ha vissuto qui nel Neolitico circa 8.000 anni fa. Donne che danzano, donne che parlano, uomini a caccia, canoe, ippopotami, giraffe. Non c'è una sola scena di guerra o di violenza. Ed è incredibilmente un mondo che non conosce la scrittura. Non ci sono case, non ci sono città. Il deserto ha conservato questa meraviglia per noi ed è come aver fatto un viaggio nel tempo. Una bellissima giornata